e c'è la ministra, no? Oh, mi vengo questi campagne parenni, e abbai anni, senza taglia il baciato di foreste, e magari al periodo delle olive, vedi, va più arrivare dell'albero, solo che la data le bigliacche non ne raccogli ne manco, le muri che ne crollano, a me la cosa non è parato un pezzo di muro. Io domani mattina sarei inviato tra sacco la sabbia è vera, poi si è aggiunto la sala di tutta bucata a cemento, a Trento, e portato la brezza. E allora, se lo lasci un muro così in comunità, è un pezzo di un pezzo di domanda, vedi se ce l'ha la devo tutto. Invece io come busto per essere domani l'ho subito ripiattato bene, come ti era prima. No, se no, tanto lo prendete di nai di tempo a fare questo muro di campagna. No, uia, mi bani la buona animale, così di Paoletta, l'ha già aiutato io, Battista, Paoletta, ha aiutato, muro la giurita, a carra la presa, che abbiamo fatto tutto il muro preso, dimmi, abbiamo carrato il muro preso da quello che si era arrivato a puzzarsi fila. Abbiamo fatto tutta la presa in suo muro. Cazzo, già, mi pare che la roba di 3 mesi per il muro, non finiva mai. Beh, io faccio il superatore, hai visto? E per il muro il superatore, no? E anni fa, se mi so fatto 2 o 3 frani. Cazzo, quando frana il superatore, io mi viene poco macello, cazzo. Però mi pulia piano piano e mi sta già stato ed è tranquillo, capito? E avanti è tranquillo e pacifico. Però può frullare pure in altri luoghi magari, ecco. Però io sanno, grazie a Dio, non ha franato nulla e per cui sono tranquillo, capito? Però si frana e faccio lui perché fai un bel di presa e un bel di terra, capito? Ed è un macello. No, da me è tutto muro a secco, però io sopra gli ho messo i fali con il filo spinato, in questo per pure arresto con il filo spinato un po' e poi sopra gli ho messo tutto il cemento, compreso, se no che ci arriva usci e si mi parava prima lui, invece no. Anzi, un paio di anni fa è passato pure la gattina tutti in alto, proprio vanno cresciuto l'erba, pure si per il giumento, grazie a Zuffo era il cenno. E poi si era la curva la via tutto quanto a parte in cura, tutto quanto ha bucato a cemento, capito? A parte dentro no, solo un pezzettino ne abbiamo fatto, con quell'impatto che mi ha avanzato, no, quando mi fanno la casa mia cugna per curiare il segundo. Un pezzaretto ne abbiamo fatto, fanno bucarcelo no, ma la pastina l'ha bucato a ribucchi, non preso. No, io anche adesso quando vado fuori e taglio l'erba, se poi una presa che è terra, nella curia se la terra è incrassata nella parata. Ma è capito del cipolo, io no, qualche presa però ma te si inutile però no, io se che voce no, caso molto in trappo, perché una presa è bici, la raccoglio, la buca la carriola e da poi se la lampa la buca la salvaggia, sotto il mio cipolletti chi va, chi mette sotto presa io, capo presa minuta no, così che io la raccoglio, non mi lasciano. E la metto su terra, però si prende per sempre mentre la terra, perché quando la ciappo, pieno, mi accorgo e tra poco un bonito. Ma è normale, dice, no? Ma se prende a menina, non è prende a madura, capito? Per cui, male che si sente a che si sono radici, dice magari che può capitarmi. Allora che ti fossi mai passato di sappetti, quando questi pezzi radici magari sono sul duscio, la ciappa in pieno, cazzo, e mi faccia la zappista. Si sono chiuso una giambata. Però quando so che anche lui, anche il radice della soprana, non posso altri, quindi mi sto cattento faccio appena appena, lo azzocchia e subito la figlio, capito? Io quando trovo le pietre, si faccio di mezzo, si va a dare la mia cuglia, a dare la dare della casa, mi sono potuto fare in tunelli, in un angolo vicino alla casetta del cane. Quando mi dico sì, devo fare in questo di marciapiede vicino alla retta, alla rete a casa. Se mi dice a me dare il taglio, lui si è così nato. Se si è perro, perciò c'ho anche due orecchi, lui si è così nato, ha rompito una terra il vostro marciapiede, invece di passare in mezzo all'elba, compreso. Vicino alla retta, no, ho fatto marciapiedi di 60 centimetri. E sotto ci metto tutte quelle pietre, capito? E non ci metto la punta. Già dove rimasto sono marciapiedi, qui ci vanno a andare a mangiare i cani di salute, invece battendo la terra, in mezzo alla campagna, fatto una terra marciapiedi e arrivi giustamente a ruolo, nel viso dei cani, a Parigi. Infatti io tutte le pietre troppo le butto lì vicino, capito? A rete, e poi lì quando è finito, e viene un po' di poco, un po' di cemento, un po' di cose marciapiedi. E così è più pulito. Eia, eia. Oh, se capite di sta il 4, grazie a un aereo di linea che si è parato il mare, si è parato, e sono tutti trento, e tu vivi ancora, La babbia ha arrivato del soccorso. Si sente imbaraggioso a salvare questi gatti. Da un bel che fai tu vivi, è un bel che è lungo, uno non è già stato da sopra e lo so sempre da là, un altro è morto, però quindi sono bel vivi tra l'aereo sotto al mare, capito? Cazzo, è bello che tu vivi, il 4 è. Il figlio che è giunto a Marienna, lo va, ci sentiamo domani Gian Mario, salutone a tua moglie, buona cena, buon tutto, e quel film è bello, quello finale cinema, ciao! Ciao, infatti io sto parlando e guardando il film, capito? Sono chiesto anche lì, vabbè, saluta anche lì, grazie. Autore anche a casa sua. Ciao, ci sentiamo, buon proseguimento. Grazie alla chiacchierata, chiudo, ciao a tutti. Ciao, ciao, salutone anche a parte di Rusi, ciao. Bye bye.